mia essenza che subisci cataclismi. Di sti poveri cristi che mi sfidano in dissing. Di storie e di racconti su fronti che sono falsi. Di grandi passi avanti che raccontano da fermi. Offesi, contratti, tarati e personaggi. Dove la musica che smazza è un optional per questi retaggi. E i vostri ingaggi hanno la puzza sotto il naso. Son fuori come ortaggi e trama, non diceva a caso. Del cimentarsi sul trascorso di altri. Puoi copiarmi questi pezzi se riesci ad imitarli. Frutto dei tagli che mi girano in testa. E la mia fantasia è repressa da sti galli senza cresta. Quanto costa? E la domanda non rispecchia. Le corse senza sosta per cacciare questa merda. Io tale merce la e Q come voglio. Ma non è abbastanza gusto per aprire il portafoglio. E ciò era soio per questi sbarbatelli. Li illudo di essere come vogliono vedersi. Conta fino a 5, dopo parla se ti pare. Smolla le tue pare, abbiamo tutto per chiunque. E le parole suonano da pungibo. Lungilo, questo flow va ben oltre ciò che so. Conta fino a 5, dopo parla se ti pare. Smolla le tue pare, abbiamo tutto per chiunque. E le parole suonano da pungibo. Lungilo, questo flow va ben oltre ciò che so. Vedi un fiume di cazzate in cui ti getti dentro nudo. Sudo, a vederti prendere cazzo in culo. Ascolti i discorsi di presidenti con lifting. Ti intrippi con stupidi ritmi. Non senti miei, ma se lo fai li schippi. Sei il classico amico di Maria De Filippi. Vedi, io non sono né scaffè caffè latte. Che le tipe vanno matte, vivi su Marte. Ma a parte questo, sono tutto d'un pezzo. Non ho mezzo teschio come a DJ Francesco. Tu ti fai soldi con la gente che ti stona. Bevi troppa Coca-Cola, poi sputi sopra il McDonald's. Sta buona, zecca, non vestirti di stracci. Se in tasca c'è più soldi dei tuoi amici magnacci. Fanculo la tua gente, lavati se c'ha l'acqua. Non lavarti solo a Pasqua che mi sporchi l'ambiente. Conta fino a 5, dopo parla se ti pare. Smolla le tue pare, abbiamo tutto per chiunque. E le parole suonano da pungibo. Lungilo, questo flow va ben oltre ciò che so. Conta fino a 5, dopo parla se ti pare. Smolla le tue pare, abbiamo tutto per chiunque. E le parole suonano da pungibo. Lungilo, questo flow va ben oltre ciò che so. Conta fino a 5, dopo parla se ti pare. Smolla le tue pare, abbiamo tutto per chiunque. E le parole suonano da pungibo. Lungilo, questo flow va ben oltre ciò che so. Conta fino a 5, dopo parla se ti pare. Smolla le tue pare, abbiamo tutto per chiunque. E le parole suonano da pungibo. Lungilo, questo flow va ben oltre ciò che so. Conta fino a 5, dopo parla se ti pare. Smolla le tue pare, abbiamo tutto per chiunque. E le parole suonano da pungibo. Lungilo, questo flow va ben oltre. Abbiamo tutto per chiunque. E le parole suonano da pungibol. Un gilo, questo flow va ben oltre.